9. Presto giungerà Oserhon, la fine dell'anno, l'inizio dell'inverno. Di notte il grande mestolo sarà a picco sulle nostre teste. Attenderemo la prima luna, passeremo 5 notti di sonno e il mattino dopo inizieremo le cerimonie. Ringrazieremo gli spiriti, le piante e gli animali, il vento, il sole e le stelle più distanti. Ringrazieremo Dio. Bruceremo tabacco nel fuoco. Le grandi teste andranno di casa in casa rimestando le braci e ravvivando i focolari. Danzeremo e la notte sogneremo forte. Al risveglio sacrificheremo un cane bianco per ribadire la nostra fedeltà agli spiriti e al padrone della vita. Inventeremo indovinelli e giocheremo a condividere i sogni. La notte passerà come una nube portata dal vento e il terzo giorno danzeremo agghindate di piume. Il quarto giorno canteremo. Cominceranno i custodi della fede, poi i Sakem, poi le matrone dei clan, infine tutti gli altri. Dopo le canzoni daremo i nomi ai bambini. L'indomani sarà il giorno dei tamburi. L'ultimo giorno giocheremo coi dadi di noccioli di pesca, divisi per clan. Divertiremo il padrone della vita, sfidandoci, scherzando, scommettendo. La squadra che avrà vinto condurrà l'ultima danza. Di nuovo parleremo e ringrazieremo gli spiriti. Così avrà inizio l'anno nuovo. Molly sapeva cosa avrebbe portato l'anno nuovo. Guerra e stenti, solitudine. I sogni del villaggio andavano in una sola direzione, tranne quelli di Ronaterionte. Lui affermava di non sognare, ma tutti sognano. Il guerriero taceva la verità con la bocca e intanto la diceva con gli occhi. Non voleva raccontare le proprie visioni. Ogni giorno pranzava con Molly, poi si dileguava come un'ombra. Chissà dove passava i pomeriggi. Certo, non aveva bisogno di nascondersi. I Whig non venivano mai a Canaioarie. Era il patto di Molly con Herkimer. Non sfidate ancora lo spettro di Sir William. Ora dormite in casa sua, su tappeti preziosi, con stivali lordi di fango. Abusate in ogni modo della sua ospitalità. Se mio marito non ha chiesto a Dio di poter scendere a sterminarvi, per tornare in paradiso, carico di scalpi, è perché sa che la pagheremmo noi, la sua gente. Gli spettri tornano nell'aldilà, la rappresaglia si compie sui vivi. Ma se importunerete la sua donna, madre dei suoi figli, madre di quel figlio che si è distinto al cospetto di Re Giorgio, nemmeno il padrone della vita potrà trattenerlo. Molly lo sapeva. Ronaterionte dormiva nella casa vuota di Taiandanega. Sotto quel tetto sarebbe stato impossibile dormire senza sogni. La neve era un pavimento di ghiaccio, milioni di scaglie di ghiaccio, milioni di minuscoli riflessi a comporre il bianco che aggrediva gli occhi. Nel rigore dell'inverno, il campo di Bagataway si mutava nella pista del Gawasa, il serpente delle nevi, gioco comune alle nazioni indiane a oriente e a settentrione dei grandi laghi. Philip ci aveva giocato da ragazzo, con i Conawaga della missione. Sulla neve gelata i giocatori lanciavano un bastone dritto e levigato, simile a un pattino da slitta. Il bastone piombava a terra e scivolava via, veloce. Vinceva chi arrivava più lontano. Lo avevano invitato Orogna Teca e Canenonte, i due giovani guerrieri reduci dalla spedizione in Canada nell'anno prima. Non vedevano il grande diavolo da molte lune, ma lo avevano accolto con foga e impazienza. Le cose peggioravano di giorno in giorno, gli avevano detto. Mentre i più malvagi tra i bianchi assediavano la nazione, la voglia di combattere dei guerrieri marciva alla catena, schiava della prudenza delle donne e dell'irrisolutezza del Sakem. Johannes Takerioga trascorreva le giornate stordito dal rum. Grazie al suo lignaggio, era l'unico cliente dell'Emporio a poter ignorare il razionamento. I Mohawk di Fort Hunter, dal canto loro, erano pavidi e insinceri, sempre pronti ad accordarsi coi nemici. Fosse stato per il loro Sakem, piccolo Abramo, presto non ci sarebbe più stata una nazione da difendere. Philip pensò che quando era ragazzo non avrebbe mai parlato di un Sakem in modo irreverente. Stava per dirlo a voce alta, ma Canenonte lo anticipò. «Diciamo cose dure, ma perché si è indurito il cuore dei giovani e i muscoli sono freddi, come questa neve». «I nostri Sakem sono figli di giorni trascorsi», aggiunse Orognanteca. «Il loro passo era saldo e veloce ai tempi di Hendrik, ma ora camminano col bastone. La guerra è terreno per i giovani». Così la pensavano Orognanteca e Canenonte, e non soltanto loro. Sospetto e inquietudine riempivano l'animo dei guerrieri di Canaioharie. Tutti descrivevano gli Oneida come infidi e distanti, silenziosi, subdoli. Di certo preparavano qualcosa, incantati come erano da quel loro reverendo, Samuel Kirkland, che appoggiava i coloni ribelli. Il loro sachem, Shonon Sess, era bravo a parlare. I suoi discorsi erano sciami di farfalle svolazzanti, dalle ali di mille colori. «Le farfalle non si difendono», aveva detto Rognateca. «Non combattono. Combattono le apri e i calabroni, ma quel genere di insetti non è mai sulle labbra di Shonon Sess». Calnenonte guardò lontano, strizzò gli occhi e parve vedere, in fondo alla spianata, il gawasa lanciato da Orognateca. Prese il suo tra pollice e indice, lo fece oscillare e lo gettò. Il serpente di legno guizzò nel bianco. Fu Orognateca a parlare. «Dobbiamo impugnare le armi, Ronaterionte. Anche a Fort Hunter ci sono guerrieri validi e coraggiosi che non sopportano più di stare fermi. Verrebbero con noi se ci mettessimo in cammino. Verrebbero con le Grand Diable ad attaccare la milizia e liberare Johnson Hall. I nemici sono tanti, ma possiamo attirarli nel bosco e ucciderli uno a uno». «E dopo?» lo interruppe Philip. «Arriverebbero rinforzi, da Albany o da chissà dove, persone senza scrupoli, non come Herkimer. Si scatenerebbe la vendetta. Hanno in ostaggio donne e bambini. L'avventatezza è una grave colpa. Dobbiamo aspettare primavera, fratelli, attendere il ritorno di Thayendanegea e soprattutto un nuovo concilio delle sei nazioni». I due giovani non dissero nulla. Dal campo si alzarono soltanto i rumori della partita. Infine, Canenonte parlò. «Degon Guadonti ha sbagliato ad avvertire Herkimer del vaiolo. La cosa giusta da fare era portare le macchie tra i ribelli, per distruggerli. I bianchi lo hanno fatto nei tempi andati. Perché non farlo anche noi?» Philip rabbrividì. «Il vaiolo non cerca alleati, non distingue le vittime. Se il male si fosse sparso nella valle, avrebbe ucciso tutti, senza ostilità né amicizia per nessuno. Molly Brant lo ha fermato, ha avvertito il comandante dei ribelli per poter curare la nostra gente senza provocare reazioni». Tacquero ancora. I due giovani continuarono a lanciare, finché Canenonte non si rivolse a Philip con un sibilo e un mezzo sorriso. «Ronaterionte! Anche per giocare al gawasa devi attendere Thayendanegea?» Philip raccolse da terra uno dei bastoni. Lo soppesò. Scrutò la coltre di bianco che copriva erba pronta a rinascere. Infine si risolse a scagliare il serpente.